il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È nato lo scorso sabato 19 novembre il biodistretto dei Colli Euganei. A promuoverlo, coordinati dal Comune di Vo, sono le amministrazioni locali assieme ad alcuni produttori, aziende, enti ed associazioni. Ma che cos'è un biodistretto e perché i Colli Euganei hanno sentito l'esigenza di crearlo? Ne vogliamo parlare oggi con il sindaco di Vo, Vanessa Trevisan, e anticipiamo che domani, mercoledì 23 novembre, il biodistretto sarà ufficialmente presentato al Caffè Pedrocchi di Padova alle ore 18. La partecipazione è libera, quindi chi volesse saperne di più può andare. Benvenuta, sindaco. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Appunto, volevamo capire biodistretto. Intanto, che cos'è un biodistretto? Il biodistretto, per definizione, è un'area geografica dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, ma anche altri operatori economici, nonché associazioni e pubbliche amministrazioni, si stringono insieme, stringono un accordo. A quale scopo? Allo scopo di una gestione sostenibile del loro territorio, ma anche delle loro risorse. E loro lo fanno partendo da quello che è un modello biologico di produzione ma anche di consumo. Questo serve per valorizzare ma anche tutelare la natura, il paesaggio, l'agricoltura, e cercando di orientare e indirizzare le abitudini sia dei consumatori ma anche dei produttori verso delle politiche di mercato, di sviluppo sostenibile. Ecco, sui Colli Euganei questa esigenza è sentita. Sappiamo che vi sono diversi produttori, anche biologici, parliamo soprattutto di vino, ma non solo, anche di ulivo, di altre coltivazioni. Confermo. È un'esigenza sentita dalla popolazione o è un'idea così nata? L'esigenza nasce, la richiesta, anche la spinta propulsiva della costituzione del biodistretto proviene proprio dagli agricoltori, degli agricoltori biologici che abbiamo nel territorio. Perché lo fanno? Loro stanno ricercando mercati locali che siano in grado di innanzitutto apprezzare le loro produzioni, ma che possano anche svilupparsi e che quindi rispondano alla domanda dei prodotti biologici che abbiamo da parte dei consumatori, ma anche dei cittadini. I cittadini inizialmente non lo erano, ma adesso sono sempre via via più interessati ad acquistare alimenti di qualità, che siano in grado, come si diceva prima, di tutelare non solo l'ambiente ma anche la salute. Questo è il motivo per il quale è nato, uno dei motivi per i quali nascono i biodistretti. Se poi ci chiediamo il perché nei Colli Euganei, certo, le motivazioni sono principalmente tre, cioè la vocazione agricola che c'è proprio in questo territorio, proprio perché storicamente ha un'importante presenza di agricoltori e ultimamente anche agricoltori biologici, non solo in numero di agricoltori ma anche in termini di superficie che è destinata al bio. Ecco, il territorio dei Colli Euganei forse si presta anche proprio per la sua tipologia ad un'agricoltura biologica. Infatti, proprio il fatto che sia un contesto collinare e ha un elevato valore paesaggistico. In più c'è anche la seconda vocazione, cioè quella ambientale, questa forte sensibilità ambientale da parte degli agricoltori, ma anche cittadini. Ecco, voi come Colli Euganei siete anche all'interno di un parco. Questo, esatto, in teoria potrebbe favorire anche questo tipo di scelte e comunque la sensibilità. Assolutamente sì, questa è stata anche una, proprio perché i Colli Euganei sono all'interno del, i paesi che compongono i Colli Euganei sono all'interno del parco, questo ha aiutato e anche questo la creazione del biodistretto. Poi un'altra vocazione che secondo me va molto sottolineata per la creazione del biodistretto all'interno dei Colli è proprio la vocazione turistico-rurale. Nel territorio dei Colli si sono sviluppati importanti itinerari enogastronomici, ma non solo, anche storico-culturali, ambientali e cicloturistici. E in questo ruolo, itinerari, un ruolo molto importante lo hanno gli operatori turistici che, attraverso quelli che sono gli eco itinerari e il turismo rurale, potranno e dovranno proporre il bio proprio con un'offerta turistica. Ecco che quindi questo è un altro motivo per i quali sui Colli Euganei o nei Colli Euganei è una buona idea quella della creazione e la costituzione del biodistretto. Ecco, i comuni sono tutti coinvolti o vi sono alcune aree dei colli che sono toccati da questo biodistretto? Allora, siamo partiti in alcuni comuni, con alcuni comuni, e poi via via abbiamo conquistato, se possiamo usare questo termine, i colleghi dei paesi vicini, tutti all'interno dei colli Eugani. Alcuni di loro sono già hanno già passato hanno già aderito al biodistretto, perché il problema è una prassi burocratica. Bisogna andare in consiglio comunale e fare presentare questo il biodistretto e poi avere l'approvazione. Alcuni di noi sono già riusciti, altri lo faranno a breve. Ma formalmente un biodistretto che cos'è? Un'associazione di fatto? È un'associazione, sì. Alla quale partecipano enti locali, ma anche aziende, associazioni del territorio? Allora, oppure... il biodistretto è fondamentalmente composto da due attori, da due tipologie di attori, che sono entrambi importanti per la buona riuscita del progetto: i soci e anche i sostenitori. Parliamo quindi di produttori biologici, quindi le aziende trasformatrici operanti nel biologico, l'associazione del biologico, rappresentanti delle aziende di vari settori legati al biologico. Poi abbiamo il consorzio tutela vini Colli Eugani, oppure anche eventuali altri consorzi di tutela dei prodotti di qualità, l'Università di Padova e altri enti di ricerca, i consulenti e i tecnici del settore, e poi ci sono anche gli operatori turistici, come si diceva prima, coloro i quali si occupano di accoglienza, turismo e commercio, vari gruppi di acquisto solidale, gli enti locali, come avevamo accennato prima, e anche Valori Italia e Camera di Commercio. Perfetto, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Ma dimmi cos'è l'azzurro infinito che per incanto colgo più in là, a due passi dalle antica nebbia che occulta l'anima. Ma dimmi cos'è quello che sento in me, l'ansia di capire perché dal ricordo di mille realtà si udirà l'armonia che cerco in fondo all'anima. E seminerò quei fiori che daranno senso al sole. Tracerò le rotte dell'amore. Senso al sole. sogno, traccerò le rotte dell'amore. Ma dimmi cos'è. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di una nuova realtà, il biodistretto dei Colli Euganei, che è stato costituito lo scorso sabato 19 novembre. Lo stiamo parlando con il sindaco di Vo, Vanessa Trevisan, e abbiamo visto che cos'è un biodistretto e quali sono un po' le sue potenzialità. Quali sono i passi che intendete fare? È già prevista qualche iniziativa particolare? Abbiamo alcune cose ancora, chiamiamole, nel cassetto, ma preferiamo lasciarle lì ancora un attimo. Poi quando saranno più concrete e più reali le condivideremo. Ecco, voi avete parlato di turismo, cioè che il biodistretto in realtà dialoga strettamente con gli operatori turistici per promuovere il turismo. In effetti anche nei Colli Euganei, ma un po' in tutte le zone paesaggisticamente più interessanti del Veneto, è in crescita un tipo di turismo che cerca qualche cosa di diverso, quindi natura, appunto un paesaggio che sia il più possibile naturale o comunque integrato con le attività dell'uomo, ma in maniera discreta, e diverse tipologie, nuove tipologie di visita, quindi itinerari anche pedonali, ciclabili, che vanno direttamente a contatto con la natura. No, infatti è questo il ruolo importante che dovranno avere gli operatori turistici, sarà proprio quello di continuare a proporre quelli che sono gli eco-itinerari che solitamente vengono proposti, ma spingere molto su quella che è l'offerta del bio come offerta turistica, quindi associarli a quelli che sono i percorsi storici piuttosto che artistici, eccetera, però puntare anche sulla proposta bio. Gli altri operatori dei Colli Euganei, quelli che non sono biologici certificati, cosa pensano di questo progetto e se voi pensate che la partenza di un biodistretto possa invitarli a fare un cambio anche nelle metodologie di coltivazione? Io sono dell'idea che aver costituito il biodistretto sia sicuramente un buon punto di partenza e al tempo stesso sono convinta che molti che magari erano un po' indecisi, non si sentivano pronti e che quindi sono però interessati a quello che è il biodistretto, adesso saranno più facilitati e anche più incentivati ad avvicinarsi a questo mondo. Questo è un mondo dove ci sono delle persone molto convinte e altri che magari si sono avvicinati più di recente al biologico, anche forse solo per motivi di carattere economico. Quindi ho sentito a volte qualcuno anche un po' polemico, e noi biologici convinti della prima ora invece che si differenziano da altri che forse hanno fatto anche con una minore convinzione, una minore preparazione. Però alla fine forse si è presa una tendenza, indipendentemente dalle motivazioni iniziali, una tendenza che sta portando a dei cambiamenti positivi su tutto il territorio. Confermo, perché il biodistretto o comunque il creare bio serve a tutelare e a valorizzare quella che è la natura e il paesaggio, non solo l'agricoltura. Quindi orientarsi verso queste abitudini è una buona abitudine. Concludiamo ricordando che mercoledì, quindi domani 23 novembre, voi siete al Caffè Pedrocchi di Padova. A fare cosa? Faremo la presentazione ufficiale di quello che è il biodistretto, ci saremo noi delle amministrazioni, ci sarà il Consorzio Vini e ci sarà anche l'assessore regionale all'agricoltura, il dottor Giuseppe Panna. Quindi domani 23 novembre al Caffè Pedrocchi di Padova ore 18, chi è interessato può venire a conoscere il biodistretto dei Colli Euganei. Grazie. L'entrata è libera e ci sarà anche, per chi volesse, un assaggio poi dei nostri prodotti, quindi un brindisi con un vino bio e dei prodotti tipici sempre biologici. Benissimo, grazie. Arrivederci, buongiorno. Chiudiamo questa trasmissione con un paio di brevi notizie. Due sono esempi di imprese innovative che ci vengono da Coldiretti. La prima, Paolo Marangone di Carbonera in provincia di Treviso, con la sua birra biodinamica a radicchio denominata Zolla 14, ha vinto la scorsa settimana l'Oscar Green 2016 per la categoria Campagna Amica, una delle 5 sezioni del concorso nazionale di Coldiretti che identifica i progetti dove il rapporto tra produttore e consumatore viene esaltato. Venendo al prodotto, si tratta di una birra stagionale prodotta una sola volta all'anno, cioè una volta all'anno in questo periodo, dove protagonista è l'acqua delle risorgive di Treviso, dove il radicchio viene immerso con le sue radici e dove i cereali sono coltivati con metodo biodinamico negli 11 ettari di proprietà dell'azienda. Un secondo progetto, presentato proprio ieri alla fiera Techno & Food di Padova, è una filiera tutta regionale che ha portato a immettere sul mercato un nuovo prodotto, i grissini tutti made in Veneto. Si chiamano Intreccio e sono realizzati grazie alla rete d'impresa, ovvero alla partnership fra aziende e produttori, creata in collaborazione appunto con Coldiretti Padova. Grazie a questa rete d'impresa, il grissinificio, il Crifil di Legnaro, può contare sulla fornitura della materia prima direttamente dal territorio. Un grano antico rilanciato da un giovane agricoltore, olio extravergine d'oliva, farine prodotte dal Consorzio Agrario del Nord-Est, birra agricola a chilometri zero e i radicchi veneti per i grissini alla birra e per quelli appunto al radicchio. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.